troppi bambini subiscono violenze che non verranno mai condannate da nessuno. Troppe persone che non sanno dare un senso alla loro vita se la prendono con l'innocenza di un bambino. Non passano giorni in cui non si vedono immagini di famiglie ormai straziate da questa realtà. Allegria strappata via da lacrime, impotenti perché il mondo ormai fa i fatti suoi coi figli tuoi. Quanti ormai gli innocenti sparsi chissà dove, dispersi nelle grinfie di diavoli senza cuore. L'innocenza che nasce, un bambino che cresce libero di giocare a me e a te. Ora dai, proviamo a distruggere il male che c'è dentro noi. Puoi farlo, sai, e capirai com'è triste questa vita. Non si chiude la ferita, non c'è più tempo da perdere, è ora di difendere.